24 mattino. Mio figlio è stato scelto per fare il test appunto sierologico. Io ho accettato perché penso che sia giusto farlo. Se dovesse risultare che ha sviluppato gli anticorpi, io dovrei essere anch'io in quarantena insieme a lui, dunque in attesa del tampone. Ma io sto già lavorando, dunque ciò significa che questa cosa si ripercuoterà anche nella ditta dove lavoro e tutti i miei collaboratori? Ho fatto l'isolamento, sono stato controllato dalla polizia locale, non sono stato curato per nulla, nessuno è venuto a dirmi, a guardarmi, non so, a auscultarmi, niente, mi hanno solo isolato. Avrei dovuto fare l'esame sierologico il 20 giugno, ma non l'ho fatto, ho rifiutato, perché se per caso, cioè, se risulto positivo, ma dopo quanto tempo aspetto a fare il tampone? Sono un artigiano, non posso più stare a casa. I governatori sono stati eletti, votati. Quelli che sono a Roma adesso, specialmente quello che comanda là, che vuoi comandare, non l'ha eletto nessuno. E quella è la differenza star o non star. Mi sembra che la star la faccia anche lui, a reti unificate. Ed ecco qua con l'ascoltatore veneto chiudiamo questo ciclo di primi WhatsApp delle vostre voci al 349-238-6666. Prima una nota su quello che ci dicevano i primi due ascoltatori. È il grande tema di queste ore, ed è il motivo probabilmente per il quale la Croce Rossa, almeno nella fase iniziale, ha ricevuto tutta una serie di rifiuti. Insomma, mi fai il test sierologico, ma poi sei in grado di farmi il tampone per dirmi se sono positivo oppure no? E quindi non è che poi mi blocchi dei giorni interi a casa in attesa di fare il tampone e magari non Covid-19 io non l'ho contratto, insomma. È un discreto problema, Un discreto problema. Lo raccontava l'ascoltatore. E quest'altro che fa l'artigiano e che dice appunto io sono molto perplesso. Il tema invece che poneva un po' brutalmente l'ultimo ascoltatore c'è una discussione aperta, come non vi sarà sfuggito, su questa pandemia, che problema creato nei rapporti tra le regioni, nei rapporti tra le regioni e lo Stato, nei rapporti tra i poteri, chi li deve avere, chi deve guidare in un caso di questo genere, nel caso della pandemia deve essere lo Stato. Abbiamo dimostrato, insomma, ci sono argomenti sia da una parte che dall'altra, no? Perché per esempio il Veneto, il cui sistema ha funzionato molto bene e lo dicono tutti tranquillamente, non ha seguito le direttive centrali, ha deciso di perseguire una strategia intensiva di tamponi. E quindi forse in questo caso il federalismo ha funzionato molto bene, e in altri casi un po' meno. Non è facile da risolvere, non è facile da risolvere, e certo questa è una situazione di emergenza particolare, e quindi forse decidere solo sulla base di quello che è successo durante la pandemia non è corretto. Però il dibattito è aperto ed è giusto che ci sia. Se volete dire la vostra anche su questo, 349-238-6666. Per i messaggi WhatsApp audio. Sono le 7:22 minuti e la seconda parte di 24 mattino. Al microfono c'è sempre Simone Spezia. Ed è la parte dedicata alla rassegna stampa. Mi segnala qualche ascoltatore, più di qualche ascoltatore, che abbiamo anche oggi problemi alla app e al sito. Segnaliamo, lo facciamo molto rapidamente sperando che tutto sia ripristinato. Due giornali aprono sulle parole del presidente di Confindustria Bonomi, sono il Sole 24 Ore che ci racconta, secondo le dichiarazioni di ieri, che è a rischio fino a 1 milione di posti di lavoro. Sole 24 Ore che racconta anche qualche dettaglio in più sul piano per il recovery fund europeo, riforme, crescita o stop agli aiuti. Bruxelles vincola i fondi agli obiettivi. E la stampa che presenta un'intervista al presidente di Confindustria Bonomi, realizzata da Massimo Giannini. Riforme subito, l'Italia non ce la farà. Un'intervista che inizia dicendo: sì, lo confermo, sono molto preoccupato. A centropagina foto sulla riapertura del campionato, la ripartenza del campionato il 20 di giugno. Molti titoli dedicati alle regioni e alla Lombardia e molti pezzi quotidiani che citano l'intervista che abbiamo realizzato ieri con Nino Cartabellotta, la Fondazione Gimbe, che ha lanciato queste dure accuse nei confronti della Lombardia. Lombardia, così tarocca i dati, è il titolo del Fatto Quotidiano. C'è il rischio Lombardia, è il titolo del Messaggero, per insomma dovrebbero arrivare le pagelle a breve, le pagelle, cosiddette pagelle delle regioni. Regioni si riapre insieme, è il titolo del Corriere della Sera. Liberi subito, è il titolo del giornale. Fontana guida la rivolta del nord e denuncia chi infanga la Lombardia sulla querela al presidente di Gimbe. L'Italia sta meglio, riparte il calcio, è il titolo del Quotidiano Nazionale. E sia la Repubblica che Avvenire aprono su Hong Kong, una sfida tra Xi e Trump, è il titolo della Repubblica. E il bavaglio cinese è quello di Avvenire, anche se il titolo forte di Repubblica è dedicato alla scuola. L'ora sarà di 40 minuti, ci fa sapere il quotidiano. La Verità, le toghe del CSM, il nostro vice fa campagna elettorale col PD. Il giorno dell'intervento dietro le quinte di Legnini sul caso Salvini, i colleghi parlavano della sua prossima candidatura a governatore dell'Abruzzo. Libero, gli italiani tornano a spendere, la Lombardia traina i consumi. Quindi apre con dei dati. E il Manifesto sugli Stati Uniti, America Down, Minneapolis vuole giustizia per George Floyd, l'ennesimo ragazzo nero ucciso da un agente. E anche qua titolo sulla Lombardia e sul rischio dei dati falsati. Arriveremo alla parte centrale della nostra rassegna stampa su Covid e non solo tra poco con, come sempre, con Paolo Mieli. Però vi voglio tenere ancora un attimo su Covid e su una parte dedicata, direi, ai provvedimenti economici. E inizierei da qua. Perché... a testimonianza del fatto che il prima insomma, cioè, la voce abbiamo sentito la voce di un artigiano, a testimonianza del fatto che queste parole che sentiamo continuamente sulla diminuzione della burocrazia, sul taglio delle complicazioni, spesso sono solo parole, il Sole 24 Ore ci porta con un pezzo un po' tecnico, è quello di Andrea Dili, perché è contenuto in norme e tributi a pagina 29, ci porta un po' su come tutte queste norme per fronteggiare economicamente la pandemia, il problema del coronavirus, creano delle disparità pazzesche. La fiera delle disparità sugli aiuti agli autonomi, alle partite IVA e non solo a loro. Guardate che, per darvi un'idea, per darvi l'idea, no, di come funziona. I collaboratori coordinati e continuativi per i mesi di marzo e aprile ricevono l'indennità di 600 euro anche in costanza di rapporto di lavoro. Ed è il caso, per esempio, lo abbiamo raccontato, dei cosiddetti navigator, dei quali molti hanno chiesto anche il bonus da 600 euro. Conseguendo quindi un'entrata aggiuntiva esentasse rispetto al compenso contrattuale, pur non avendo subito alcun danno economico. Artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla gestione separata dell'INPS ricevono lo stesso importo incondizionatamente, dato che non sono previste per loro limitazioni, che invece sono contemplate per i professionisti appartenenti agli ordini, che potranno accedere agli aiuti solamente se percepiscono redditi non superiori a 50.000 euro e dimostrando di aver subito pregiudizi economici a causa dell'emergenza Covid-19. Per il mese di maggio, ulteriore frammentazione con una serie di complicazioni che non vi sto a dire. Per artigiani e commercianti viene tratteggiato un contributo a fondo perduto fino al 20% del fatturato perso ad aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019, con un minimo di 1000 euro a condizione che tale decremento sia superiore al 33,33%. Capite ragazzi che in questo modo non se ne esce, eh? Quindi per ottenere questi 600 euro non si sa esattamente chi li ottiene, come li ottiene, in che modo, che cosa esattamente deve dimostrare. Insomma, molti di voi che tra l'altro ci ascoltano e che sono partite IVA o che svolgono lavori di questo tipo sanno perfettamente di che cosa sto parlando. Gli altri possono avere una misura di come è facile complicare le cose. E visto che siamo sulle questioni economiche, c'è un pezzo che mi ha colpito oggi sempre dal Sole 24 Ore e ve lo butto là, è un pezzo di Antonio Guizzetti che, va detto, è parzialmente una parte in causa perché è presidente di una società di consulenza che è advisor di German Efromovic, che è l'imprenditore sudamericano che ha presentato una sua manifestazione di interesse per l'acquisto e il rilancio della compagnia aerea italiana. E però, guardate che solo l'attacco vi dà la misura della vicenda all'Italia, sulla quale torniamo costantemente perché è proprio uno dei grandi paradossi italiani. Ci sono almeno un paio di inesplorati misteri nella storia dell'Alitalia, scrive Antonio Guizzetti. Il primo è: come può esistere nel 2020 una compagnia aerea che ha chiuso l'ultimo bilancio inutile nel 2002? L'ultimo bilancio inutile di Alitalia è del 2002, 18 anni fa. Il secondo suona così. Come può essere che un paese che è l'ottavo al mondo per PIL, quinto per afflusso di turisti, secondo polo manifatturiero dell'Eurozona, le cui aziende controllano all'estero 24.000 imprese, dove ci sono 15.000 società estere, abbia una compagnia aerea sparita dalle classifiche mondiali per merci e passeggeri trasportati e valore economico del brand, oltre la 50ª posizione in tutti e tre i casi? Vi basta questo attacco per darvi la misura della vicenda sulla quale siamo tornati infinite volte. Compagnia aerea per la quale metteremo altri 3 miliardi di euro, come ormai ben sapete. Molti elementi su Covid-19, naturalmente ci arriveremo, ripeto, tra un attimo con Paolo Mieli. Mi soffermo solo brevemente adesso sulla questione della scuola, perché il pezzo più importante qua viene scritto dal quotidiano La Repubblica, il quale è l'unico che riporta quest'ipotesi di ore da 40 minuti. Il professor Patrizio Bianchi dice, Corrado Zunino, che è a capo della task force del Ministero dell'Istruzione, ha consegnato il piano per settembre, la scuola che riparte, alla ministra Lucia Azzolina ieri mattina. È pieno di indicazioni, ancora grezzo nel linguaggio. Dice: l'istruzione ha bisogno di due nuove leggi per funzionare. Una è la riduzione dell'orario della singola lezione fino a 40 minuti, serve un decreto. L'altra è la depenalizzazione del reato di infortunio sul lavoro in un istituto scolastico. E sotto questa casistica rientra il contagio da Covid. E però, l'ipotesi sono orari di, appunto, 40 minuti, classi dimezzate, lezioni all'aperto, lavori di gruppo, ingressi scaglionati solo alle superiori. Il piano per settembre sul tavolo della ministra, mancano però 80.000 professori per mettere in atto questo piano. Ancora su Covid, sembra un mese fa, invece era solo 4 giorni fa, la vicenda degli assistenti civici. Gli uomini con la pettorina contro la movida, no, non sono più contro la movida, ma servono invece per portare la spesa agli anziani, far attraversare la strada alle vecchiette, a volte sì, avvertire quando qualcuno non ha messo la mascherina. Ebbene, il bando è ancora congelato, sappiatelo, c'era stato detto che sarebbe arrivato in settimana. Cosa succede? Ce lo racconta Simone Cannettieri sul Messaggero, a pagina 3, e ci fa sapere che dietro lo stop c'è il pressing del terzo settore. un bando bloccato, le pressioni del terzo settore, quello del volontariato e un governo diviso. Dietro la storia dei 60.000 assistenti civici che dovrebbero aiutare i sindaci italiani dal 15 giugno al 30 agosto a gestire l'estate italiana, ci sono polemiche pubbliche, scontri interni e l'esecutivo, al punto che la pratica al momento è congelata, spiega Simone Cannettieri. Il meccanismo si inceppa appunto con gli assistenti civici, nonostante sindaci e governatori spingano per questa soluzione. Si tratta di far lavorare 16 ore a settimana personale volontario nel comune di residenza e in tutti quei modi che abbiamo raccontato, fuori dai parchi, nelle piazze, nelle case degli anziani soli, eccetera, eccetera. Però il mondo del volontariato si ribella a dire, insomma, ragazzi, noi questo lavoro lo facciamo regolarmente, coinvolgeteci. Per esempio, il diffuso mensile Vita, che fa capo all'omonima Onlus che si occupa di volontariato da decenni, chiede in un editoriale che lo Stato crei le condizioni e disponga le risorse affinché le grandi reti associative e i centri di servizio del volontariato siano coinvolti. In ballo progetti da finanziare. Intanto il bando diventa un caso politico che divide il governo con un valzer di accuse, smentito però dagli atti ufficiali. La decisione sugli assistenti civici dunque è ancora congelata e, aggiungo io, chissà se se ne farà qualcosa. Una pausa. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Mattino. In questa linea tra nord e sud non voglio immaginare cosa sarebbe successo nella situazione contraria, in cui sarebbe stata la Lombardia a chiedere la chiusura delle regioni del nord. Saremmo a quest'ora a parlare di Cavour, briganti, questione meridionale e razzismo, purtroppo. Lo dico da uomo del sud. Diciamo che il pasticcio non è stato fatto solo sui numeri, ma su tutta la gestione da parte di questo bel governo. Tra l'altro, governo che ha avuto un grandissimo risultato, è riuscito a riportare l'Italia a prima delle guerre di indipendenza, a prima del 1861, quando l'Italia era divisa. Complimenti davvero a questo governo. Non sarei così netto. Non è forse ancora il tempo, come abbiamo detto spesso con Paolo Mieli, buongiorno Paolo, di attribuire le responsabilità, no, per la gestione della crisi con calma, perché poi sarà tutto da vedere alla fine, da quando usciremo da tutto questo, mi pare. Sì, comunque ieri Radio 24 ha mobilitato la giornata, anzi peggio, ha creato un terremoto nella giornata con un'intervista al responsabile della Fondazione Gimbe, che diceva che in Lombardia sono stati truccati i dati. Oggi il grande risalto dei giornali, ovviamente soprattutto sul Fatto Quotidiano, che contro la Lombardia, o meglio contro la giunta leghista che governa la Lombardia, ha aperto da tempo una guerra e titola Lombardia così tarocca i dati. Fondazione Gimbe, ragionevole sospetto, aggiustati i numeri dei contagi, dimessi confusi con i guariti, il falso dei morti zero. La giunta querela, ma i conti non tornano. E tutti echeggiano questo titolo. Sì, dall'altra parte c'è quello del giornale, per, se vogliamo prendere, no, il titolo opposto, il lato opposto del titolo, liberi subito, Fontana guida la rivolta del nord e denuncia chi infanga la Lombardia, no? Su questi due fronti. Perché c'è tutto questo dibattito sulla denuncia della Fondazione Gimbe? Perché è in gioco la questione se la Lombardia debba aprire, cioè se i cittadini lombardi possano andare in Sardegna o in altri posti, e o se vada fatta un'apertura differenziata. Adesso stiamo alla vigilia, la prossima settimana. Mi sembra ragionevole come prospettiva, la credo perché è una brava giornalista, quella di Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera. Dice che ci sono al momento solo due ipotesi: o subito aperti tutta l'Italia, o rinvio di 7 giorni, ma valido per tutti. Cioè, il governo mi sembra che abbia deciso, stando all'articolo di Sarzanini, di fare come si fece la chiusura. Sì. Prima si discute aprire qui, chiudere là, dopodiché si decide per tutti insieme, perché effettivamente fare l'apertura differenziata provocherebbe ulteriore caos, chi, dove, perché ci sono non solo regioni ma anche zone in cui l'infezione rimane, non dico alta, ma insomma rimane preoccupante, e quindi allo stato attuale questa è l'ipotesi. Decisione quella del rinvio di una settimana della riapertura che, lo sappiamo Paolo, innescherebbe inevitabilmente nuove polemiche con accuse alla Lombardia di tenere di fatto in ostaggio il resto del paese. Però insomma queste sono le cose sulle quali si sembra orientarsi l'esecutivo. Ascolta, ti porterei sul fronte economico. Ovviamente oggi ancora molto parte del dibattito è ancora sul Recovery Fund europeo, e poi abbiamo, come dicevo, due quotidiani, il Sole 24 Ore e La Stampa, che aprono con invece le parole del presidente di Confindustria Bonomi, con questo milione di posti di lavoro a rischio. Sì, è un nuovo allarme. Bonomi sta diventando subito, appena insediato presidente della Confindustria, un uomo cardine del dibattito pubblico, perché ha l'aria di voler dire le cose in maniera cruda. Ieri, parlando alla Fiera di Milano, un convegno, ha detto subito gli investimenti, tavolo pubblico-privato, no a interventi a pioggia, è importante soprattutto questo, no a interventi a pioggia, e poi, parlando del governo, dice questa è una politica concentrata sull'emergenza ma con zero strategie. Poi, dopo aver parlato alla Fiera di Milano, ha rilasciato un'intervista al nuovo direttore della Stampa, Massimo Giannini, in cui ha indurito, se è possibile, questa denuncia, dicendo riforme subito, l'Italia non ce la farà, è sulla Stampa in prima pagina, sì al MES, non voglio far cadere Conte, ma ai politici, continua a dire, manca una visione. Su molti giornali si dà notizia del fatto che Conte abbia richiamato in servizio, per così dire, uso un linguaggio militare, il capo della task force Vittorio Colao, per dire adesso noi ci dobbiamo presentare con un piano preciso. Non dico che voglia dare ragione a Bonomi, ma insomma vuole dare un piano preciso di strutturazione di questi interventi dello Stato e di farlo subito, quindi secondo me entro il fine settimana, prima del 3 giugno, quindi 3 giugno è mercoledì prossimo se non vado errato, e entro questo lungo ponte che inizia oggi e si chiude il 2 giugno, secondo me dovrebbero essere dati per la prima volta un programma molto molto circostanziato. Sì. Restiamo su Covid, ti porterei sul forse possiamo andare proprio sul Sole 24 Ore, il Sole 24 Ore, un piccolo pezzo a pagina 10, su altri giornali lo troviamo in maniera più estesa, il nuovo record di contagi a Seul, e questo è un grande tema, no, che apre il dibattito, perché la Corea era un po' il nostro modello, no? Si diceva il modello Corea, la Corea ha riaperto e si trova con una nuova ondata di contagi e deve far ripartire il lockdown in sostanza. Ed è la seconda volta, dopo aver riaperto, ha avuto il suo 3 giugno, poi ha avuto un primo allarme per dei cittadini immigrati che avevano creato un focolaio, lo ha domato e adesso si è trovata con un super focolaio e sta per chiudere mezza Corea, se da quello che dicono tutti i giornali. Ho fatto meno citare l'articolo del Sole 24 Ore, ma l'articolo c'è su tutti i giornali. Che cosa significa questa cosa della Corea? Io lo sto dicendo da tempo, teniamo aperti gli occhi su quello che succede in Asia, perché in Asia stanno accadendo cose che poi sono regolarmente ripetute in Europa con 20-30 giorni di ritardo. Sì. In Asia sembrava che fosse tutto finito e poi di quando in quando si riaprono focolai e si corre ai ripari nell'unica maniera che conosciamo. Questo vuol dire anche che i medicinali, i famosi medicinali che aiutano a contenere, se non a guarire, dal morbo, non sono ancora pronti, altrimenti lo userebbero, perché quello che è successo in Corea, quello sì. che sta succedendo oggi in Corea è successo anche a Singapore, sta succedendo anche ogni settimana in Cina. Sì, dall'altra parte segnala per esempio il professor Enrico Bucci sul Foglio. Questo è un pezzo, quando scrive, io suggerisco sempre di leggerlo perché dà una lettura interessante. Dice: è la dimostrazione che il metodo dei tamponi estensivi, del tracciamento, eccetera, eccetera, funziona, perché nel momento nel quale scopri un focolaio epidemico puoi muoverti con molta rapidità, esattamente come ha fatto la Corea. Oh, a proposito di tracciamento, vi voglio solo segnalare rapidamente, prima di andare in pausa, così poi cambiamo argomento, passiamo a tutta la questione della magistratura, a pagina 16 del giornale, Davide Zamberlan è quello che ne scrive più, di più, gli dà un'intera pagina. Londra traccia i positivi senza app. È partito il sistema per individuare i contagiati, ma non è basato su un'app, sul lavoro di 25.000 persone, 25.000 persone che saranno delegate ovviamente a ricostruire i contatti dei cittadini che hanno contratto Covid-19. Traffico. Gli anni 90, che anni, che ritmo. Una Vespa domenica è già, e una Vespa ci porterà fuori città. Quante cose sono cambiate dagli anni 90. Ad esempio, digitalizzare i processi aziendali oggi è più facile, con un software gestionale che funziona sempre e ovunque, in ufficio, in viaggio, in smart working, in cloud. Con Fluentis hai tutte le funzionalità di un ERP evoluto, completo di CRM e business analytics, per analizzare i tempi e ridurre i costi della tua attività. Non ci credi se non vedi? Vai su fluentis.com, scarica l'app e inizia subito la tua prova gratuita. Fluentis, la F che funziona. Mattino. Dunque, caro Paolo, tutta la questione della magistratura è apertissima, con le intercettazioni. Anche perché queste intercettazioni di Palamara sembrano essere un pozzo inesauribile. Io credevo che il grosso fosse uscito l'estate scorsa, invece adesso mi escono di nuovo. Adesso è nei guai l'ex vicepresidente, comunque è sotto attenzione l'ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Giovanni Degnini, che si preparava negli ultimi giorni da vicepresidente a una carriera in politica, e quindi ne discuteva, si doveva presentare come candidato dei democratici per una regione, e insomma, quando vengono fuori queste pressioni del CSM, poi le pressioni sono sempre il gioco a chi è più puro, chi indaga di più Salvini. Siamo all'estate scorsa e ormai sono innumerevoli, dicono Salvini è una merda, testuale, bisogna indagarlo. C'è un pubblico ministero che è sotto inchiesta. Sì, più che indagarlo qua, si parla di attaccarlo, no? Attaccarlo anche pubblicamente e prendere posizione. Manca aprire l'indagine, perché per esempio ti stavo dicendo, c'è un pubblico ministero che viene incolpato che non è abbastanza puro, non è abbastanza duro con Salvini. Insomma, in questa estate di fuoco, vorrei ricordare che l'estate scorsa è l'estate in cui Salvini è stato per sua colpa disarcionato, nel senso che è stato lui ad aprire le ostilità, ma quando lui ha aperto le ostilità, tra i magistrati, a leggere questi brogliacci, è scoppiata la tempesta, dai, diamogli addosso, è il momento opportuno, sembra a leggere queste intercettazioni, e tutto è in un torrente di fango. Tra l'altro, dice Maurizio Belpietro nell'editoriale della Verità, che è il giornale che cavalca di più degli altri questa battaglia, la sinistra usava il Consiglio Superiore della Magistratura come un taxi per far carriera, dalla Casa Nuova al posto in procura, tutte le suppliche delle toghe rosse, la confessione dei magistrati in chat, oggi pubblicano le chat di Palamara, ce n'è una, ma Giovanni che è Legnini si candida per l'Abruzzo, sarebbe importante saperlo visto l'aria che tira, ok, perché lui ci chiede di dire qualcosa sulla storia della nave, noi lo facciamo volentieri, ma poi non si deve dire che lui comincia così la sua campagna elettorale, tutto è testuale, sì, sì, sì, sì. Molto molto imbarazzante. No, notevole, e c'è anche una cosa che ha a che fare con il PM che ha tra le mani il fascicolo a carico del figlio di Beppe Grillo. Questo è un capitolo delicato, vedo che non ti sfugge niente, sei no, veramente molto maligno. Stiamo parlando Gregorio Capasso, perché quella vicenda, il figlio di Grillo che fu accusato di stupro, non se ne seppe niente, ma la vicenda fu contemporanea alla caduta del primo governo Conte, alla nascita del secondo governo Conte, è uno spostamento clamoroso di Grillo che cominciò ad avere una simpatia fortissima per la nascita di questo secondo governo, per l'accordo con le sinistre, mentre suo figlio era così interrogato per questo stupro avvenuto, non c'è sentenza, però lo stupro è stato ammesso da questi ragazzi, perché era lui il figlio di Grillo con altri tre, e il pubblico ministero che indaga sul presunto commesso di stupro commesso dal figlio del comico tampinava il collega, quello che sì, è sempre Palamara, offrendogli biglietti gratis per la Juve in tribuna VIP, cena al ristorante dello stadio. Intanto si informava sulla nomina a procuratore di Tempio Pausania. Devo dire subito una cosa, io ho letto con grande attenzione questo articolo di Giacomo Amandori, non c'è nulla che colleghi il caso di Capasso al figlio di Grillo, cioè non è che si parla della vicenda del figlio di Grillo, però questa attenzione portata in una pagina di grande evidenza, pagina 5, sulla verità, mi fa venire i sospetti, ma io sai, sono malizioso, quindi maliziosissimo. Lasciamoli là in sospeso. Paolo, vorrei chiudere con altri due elementi molto rapidamente, perché abbiamo veramente poco tempo. Uno è quello americano, la vicenda di Minneapolis, ne troviamo anche qua traccia un po' su tutti i giornali. Il manifesto ci apre. America Down, l'ho visto. Sì, Minneapolis vuole giustizia per George Floyd, l'ennesimo ragazzo nero ucciso da un agente, seconda notte di scontri. Qual è qua la novità? Che ieri è venuto fuori un filmato in cui si è visto, ormai credo che gli ascoltatori hanno visto quasi tutto, sì, assolutamente, quella gente che teneva la gamba, il ginocchio sul collo e lo ha ucciso questo ragazzone. Bene, è venuto fuori un filmato che prima di tenergli la gamba l'aveva arrestato, quello si è stato tranquillo con le manette, cioè non è stata una colluttazione che si è conclusa in quel modo, ma è stato un omicidio molto molto più grave, quindi l'America in fiamme, ma in fiamme davvero, come le manifestazioni che si vedevano nell'estate del 1969. Però credo che quando tu dici due fatti, un altro è quello di Hong Kong, perché anche Hong Kong brucia, l'apertura della Repubblica, infatti è Hong Kong, una sfida fra Xi Jinping e Trump, e ci sono dei problemi, anche addirittura un riflesso della situazione greca nella maggioranza italiana. C'è un articolo di Tommaso Ciriaco, in pagina 3 di Repubblica, la maggioranza si spacca, il PD con la piazza, il Movimento 5 Stelle per Xi Jinping. La tradizionale linea soft di Di Maio nei confronti della Cina, beh, c'è qualcuno del PD che dice: ma ragazzi, siamo proprio sicuri. Forse dovremmo dire qualcosa. Il tema è questo, no? Forse dovremmo dire qualcosa sulla Cina. Esatto, a un certo forse punto. Dovremmo dire qualcosa. Ricordiamoci che Massimo D'Alema ha appena pubblicato un libro, che è un regista di questo governo, in cui dice che bisogna stare sempre comunque dalla parte della Cina, ovviamente semplifico. Ne ha parlato anche ieri, intervistato a Piazza Pulita, se non vado errato, dicendo più o meno dicendo un grande attore economico, un grande attore, eccetera, eccetera. Però c'è una parte, quindi anche non è solo il Movimento 5 Stelle a essere schierato al 100% con la Cina, ma anche una parte consistente storica della sinistra. Grazie Paolo, ci risentiamo lunedì. Grazie Paolo Mieli, buona giornata. GR24, poi con Maria Latella daremo diritto di replica, per così dire, alla Regione Lombardia sulle parole dette ieri da Cartabellotta. Parliamo con la Presidente della Regione Calabria, Iole Santelli, e poi con uno psicologo per capire un po' gli effetti del lockdown. Ah, se ci volete dire com'è andata a voi, 349-238-6666 per i messaggi su WhatsApp, audio, ciao.